C'è una certa giustizia poetica nell'idea di un carabiniere, anzi di un colonnello dei carabinieri, che cerca di eludere a proprio esclusivo vantaggio leggi e regolamenti vigenti e, sorpreso, viene coperto di ignominia e deferito senza poco tempo in mezzo all'autorità giudiziaria. Come è successo giorni fa, lo saprete tutti, al colonnello Antonio Ragusa, ex comandante del gruppo Roma Primo, che, presentatosi per motivi ignoti ma presumibilmente deprecabili a un esame da procuratore legale, è stato clamorosamente cuccato mentre consultava certi misteriosi appunti. Almeno lui ha detto che erano appunti, perché altri sospetta trattarsi del testo presvolto del tema d'esame, che aprirebbe delle ricche tutt'altro che pellegrine ipotesi sul fatto che il concorso fosse truccato. Comunque, visto che per legge anche la consultazione di appunti agli esami di Stato è rigorosamente vietata, l'argomento non ha una vera e propria rilevanza. L'episodio, nel suo complesso, ha colpito l'immaginazione di molti perché evoca dei modelli molto noti di moralità popolare: la sindrome del custode che deve essere custodito, quella del beffatore beffato, o anche, visto che l'alto ufficiale è stato individuato dai commissari su segnalazione di un altro concorrente, la sindrome del delazionista delato. In fondo, che l'esponente di una categoria professionale avvezza a servirsi largamente dell'opera dei delatori inciampi su un caso, diciamo così, di delazione spontanea, non può che far piacere a quanti si consumano dei loro molti guai, individuando il manifestarsi nelle umane vicende di una certa malinconica simmetria. Però vi confesso che c'è un problema che mi tormenta, e il problema è: chissà chi era il concorrente, mi è sembrato che fosse una concorrente, anzi, chissà chi era il o la concorrente che ha fatto la spia al colonnello Ragusa e perché ha commesso un'azione del genere. Vedete, per motivi assolutamente indipendenti dalla mia volontà, a me è capitato di sovrintendere ad alcune decine di sessioni di esame scritte, di varia natura e varia categoria, in cui tutti i candidati unanimemente copiavano, o gli uni dagli altri, o da punti proprio altrui, o da foglietti astutamente inseriti nei vocabolari, o addirittura da manuali e o libri di testo che goffamente cercavano di celare in vario modo sotto al banco. E mai è successo che uno facesse la spia a un altro, e non solo perché la delazione, che ne dicano i carabinieri, in genere è considerata una cosa infamante, ma credo che esista persino una qualche superstizione diffusa tra gli esaminandi per cui un testo del genere porterebbe una sfiga tremenda. E non dicevo niente neanche io quando mi accorgevo che copiavano, figuratevi, e non tanto per paura della sfiga o perché di animo particolarmente tenero, ma perché io non ho mai capito la logica che impone di dar buona prova di sé componendo saggi o scrivendo comparse o quant'altro rigidamente a memoria senza consultare testi di qualsiasi genere. Nella vita, quando si deve comporre un saggio, o nel caso di un procuratore legale redigere una comparsa o elencare dei motivi d'appello, si consultano sempre testi in quantità. Anzi, quello di sapere consultare e, nel caso, copiare i testi che vanno consultati e copiati è un elemento importantissimo di qualificazione professionale. Io ho sempre sospettato che il divieto fosse motivato esclusivamente dall'inconscio desiderio di evitare figuracce alla commissione, che inconsapevolmente potrebbe attribuire un voto particolarmente basso al testo perfettamente copiato dall'opera di un eccelso luminare del ramo. Ma questo non c'entra. Quello che conta è che non ero solo a chiudere uno o più occhi, vi assicuro. Gli sforzi dei candidati per copiare senza farsi notare sono sempre pateticamente vani, nel senso che si vede benissimo che copiano, e quasi mai i commissari, anche i più burberi, non intervengono. Io so che gli esami da procuratore legale sono particolarmente feroci, so che molti provetti operatori del diritto sono costretti a ripeterli tantissime volte, c'è persino chi arriva a mutare residenza, se non domicilio, per poter essere assegnato a una commissione di cui è nota la maggiore malleabilità rispetto ad altre, ma non mi sembra che siano caratteri che abbiano un carattere concorrenziale, nel senso che ci sia a disposizione un numero limitato di promozioni per gli altri ciccia, per cui non c'è proprio motivo che i candidati si facciano la forca a vicenda. Se il colonnello fosse stato in alta uniforme con piume alla mare, vabbè, si sarebbe potuto capire che qualcuno o qualcuna avesse sentito l'impulso irresistibile di mettergli i bastoni tra le ruote, figuriamoci, ma era in borghese, poveretto. Non ci si scappa. o è stata la giustizia divina che è intervenuta direttamente per manifestare la sua riprovazione verso un custode della legge particolarmente infido, il che per una quantità di motivi teologici su cui non è il caso di soffermarsi, magari Walter se ne occuperà più tardi, però sembrerebbe improbabile, o è una congiura? Probabilmente è una congiura originata negli ambienti dell'autonomia organizzata, magari con la complicità della Polizia di Stato, altre agenzie ostili ad Arba Benemerita e chissà i servizi segreti. E sarà bene controllare accuratamente i precedenti, le tendenze, il conto in banca del candidato delatore, a meno che naturalmente il colonnello, abituato dal lungo esercizio dell'autorità colonnellesca a una certa quale arroganza di comportamento, a non doversi preoccupare più che tanto di controlli e pastoie, perché pensate al senso della propria importanza che hanno i marescialli dei carabinieri, quelli che si conoscono nei paesi, no? E figuratevi un colonnello, a meno che così abituato al proprio ruolo il vostro sciagurato non abbia cavato di tasca i suoi appunti e si sia messo a copiare con tanta palese improntitudine da rendere una denuncia praticamente obbligatoria. E succede talvolta a chi esercita la propria autorità di dimenticare le condizioni a cui gli è stata conferita. Non stiamo a fare indebiti paragoni, ma pensate al povero Craxi, insomma. Oh, questa almeno è una probabile interpretazione dell'episodio, non se ne possono escludere altre. Io mi limiterò a segnalarvi come bello esempio di argomentazione capzosa un articolo di Repubblica domenica scorsa, mi sembra, in cui un tale sosteneva che il tutto, l'episodio dico, torna a dimostrazione della superiorità morale dell'arma dei carabinieri, che non si è stretta a riccio attorno a difesa del suo esponente, come altri gruppi, per esempio le corporazioni politiche, avrebbero fatto senz'altro. Capite che quello avrebbero fatto è un condizionale un po' troppo condizionato per dimostrare qualcosa. E se proprio si intende asserire l'eccellenza dell'arma, è meglio darla per scontata a priori, senza arrischiarsi in speculazioni troppo ardite, altrimenti qualcun altro si potrebbe mettere a speculare a sua volta sulla logica di un'organizzazione che assegna una carica importante a uno incapace di passare un esame senza copiare e passi, e incapace di copiare senza farsi beccare al primo colpo. Ma visto che Natale siamo tutti più buoni, per questa volta lasciamo perdere. When the girls got here, it will certainly show. When the boys are learning how to move, the lights go out. They wish they knew all the places in a girl's heart. When the girls get here, it will surely show. When the girls get here,